raccontare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Resto Radio Convento, diretto del sabato sera, in compagnia dei ragazzi che vengono da... Brescia! Brescia? Brescia città? Sì! Sì, no, non periferia, vero? Proprio città, no, città. Città, città! Esatto, perché c'è una di voi che quando si arrabbia fa la mucca, giusto? Mi è stato detto così. È la festeggiata! È la festeggiata! E chi è? Chi è la festeggiata? Io! Ci fai la mucca? No, no, Ci dici come ti chiami? Ci dici come ti chiami? Carlotta. Carlotta, quanti anni compi? 18. 18, ragazzi, 18, eh? Ah, fantastico. Il surfista in parte a te ce li ha 18? Sì, sì. Ce l'ha del surfista, no, ragazze? Sì, sì, ce l'ha. Ce l'ha? Sì. È figo? È figo? Molto. Ma Carlotta, cosa dici che... No, non va bene. È un tuo parente? È un tuo parente? No, no. Ah, no, no, no, magari era per quello. Tutti che... amici, tutti amici. Ah, tutti amici. Allora presentiamo gli amici, vai col nome. Martina. Detta? Scherzo. Martina? Martina Bonnie, detta Martina. Detta Bonnie. Ah, la Bonnie, è giusto, Martina la Bonnie, esatto. Poi? Vittoria. Detta? Vincita? No? No, no, no, niente. Niente, ok. Sasha. Sasha ha detto surfista, per forza. No? C'è anche il nome... Da oggi si direi. Da oggi surfista, va bene. C'è anche il nome figo, no? Sasha, cioè, particolare. Australiano. È molto molto ma è single Sasha? Sì. Sei single? Ok, facciamo un appello in radio? Vuoi fare un appello? Facciamo un appello? A tutte le ragazze che cercano un moroso, Sasha il surfista è disponibile. Brava, sei sulla giusta lunghezza d'onda. Brava, brava, brava. Poi abbiamo la ragazza che ha parlato adesso, come si chiama? Giorgia. Giorgia detta? Gio. Gio, così l'abbreviamo così. Anche Giorgia è single? Sì. Sei contenta? Felicemente sì. La vediamo felice proprio, è proprio. Mentre le altre due sono fidanzate, sono tristissime, una roba. Io? No? No, no, sono innamorata di un amico di mio amico. Ah, innamorata dell'amico, non si può dire, quindi? No, no, non lo diciamo. Eh? Lasciamo solo il mistero? No, dico solo che è molto bello. È molto bello, ok, non è qua stasera però. No, no, non è qua. Ma se lui ascoltasse la radio, come fa a capire che è lui? Boh, si chiama Francesco. Ah, vabbè, puoi dirlo, l'hai detto? No, eh? Sì. Ah, no, sì. Mi piace questa ragazza, è da poche idee e confuse anche, proprio. Mandiamo la nostra festeggiata Carlotta. Carlotta, è sparita. Ah, no, io... Che c'hai? No, niente. Ah, niente, ha finito. Carlotta, no, allora, raccontaci, tu sei fidanzata? Sì. Con Matteo? Mattia. Mattia, lo spogliarellista, giusto? Perché ho sentito nel locale stasera, a un certo punto, io ero in un'altra sala, ho sentito che Mattia faceva lo spogliarello. L'avete sentito anche voi, sì, no? Sì, sì, l'abbiamo sentito tutte. Ah, l'avete sentito? L'avete visto anche tutte? No, no, no. Sono deluse. Solo Carlotta. Ah, esatto. Infatti vedo le amiche deluse. Ma perché non l'avete visto o perché non c'ha il fisico da spogliarellista? Carlotta, dici tu. Cos'è che c'ha la carota? Cos'è? No, solo perché non l'abbiamo visto. Ah, solo perché non l'avete visto. Tu Carlotta l'hai già visto fare lo spogliarellista? Non ancora. Non ancora, non ancora. Siamo in attesa dello spettacolo di Mattia. Si farà stasera verso le tre di notte? Sì, probabile. Ok, aspettando. E Carlotta, i regali invece come sono andati? Che all'inizio della serata... Ma molto bene. Ah, ti vedo delusa? No, no, belli, belli. Belli? Belli? Sì. Si può dire cosa ti hanno regalato? Allora... Non te lo ricordi? No, no. Cover per le AirPods. Le AirPods. Mi piace che non fa niente senza la Giorgia qua, no? Poi? Poi una collana. Sì. Una maglia. Sì. I surfista. Trucchi. I trucchi? Il surfista cosa ti ha regalato? Era nel regalo tutti insieme. Ah, il surfista era compreso nel regalo, quindi. Sì, esatto, ha aperto il pacchetto, è uscito lui. È uscito il surfista. Perfetto, perfetto. Ma voi studiate tutte, sì, andate con la scuola? Sì, sì. Tutte sì, studentesse. La quinta? Sì. Insieme l'avete detto, cioè, sembra. La vittoria no. La vittoria no, ha perso, è stata bocciata? No, no. Sei felicemente diplomata? No. Sì, no. Va all'università terzo anno. Sì, no, esatto. Ah, sei la più grande di loro? No. Come hai fatto? No, in realtà è più piccola. Cioè, non si capisce. All'università è più piccola di voi. Ma c'è la terza. Ah, terza superiore. Ah, è più piccola. Adesso che okay. Abbiamo risolto il mistero. La prima volta per voi al convento? No. No. Sì. No. Sì. Sì, no, sì. Devo farvi le domande sincronizzate, sennò sono cavoli, eh? Cioè, che bello. Allora, avete ballato, già fatto tutto? Sì, tutto sì. Quanto? Anche con le signore mi sono divertita. Ah, ecco, mi giunge voce che ballavi con le signore. Certo. Cioè, in che ma senso? Ma nel senso che arrivavo lì e tipo le prendevo la mano. Ah, tu prendevi la mano delle signore? Certo. E le facevi voltare, girare? Certo. Calcolando che sono felicemente innamorata. Ah, tu sei con le signore. Ah, tu sei felicemente innamorata, quindi eri tranquilla e ballavi con le signore. Esatto. E le signore cosa ti dicevano? Le signore cominciavano a ballare. Felicemente anche loro. Felicemente anche loro. Che storia. Cioè, la tua amica in parte si sta addormentando invece. Ha detto io. È un po' brilla. Ah, si vede che luccica. È felicemente brilla. È felicemente è brilla. Ci fai un. Sì, è vero. No. Si vede che felicemente. C'ha l'occhio appannato un po'. Anche l'occhiale si sta appannando adesso. È tutto sincronizzato. Bellissimo. Ma l'amica brilla, hai una specialità? Sei capace di fare qualcosa che nessuno è capace di fare? No. No. Nessuna di voi ha una dote particolare? Riesco a mettermi il pugno in bocca. Com'è che è questa? Serio? Colpo di scena, purtroppo siamo alla radio, no? Voi l'avete mai vista? No. Allora facciamo così, vogliamo vederti fare questa cosa anche se siamo in radio e non si può. Ah no, però c'è il video, aspetta un attimo che facciamo una cosa del genere che mi sono dimenticato, ecco. Adesso ho avviato anche la registrazione, mi ero dimenticato, però adesso ce la possiamo fare. Signori e signori, solo per noi no, stasera. No, è bruttissimo. È bruttissimo, è violento? No. Cioè, è una cosa. No, però fai un'espressione molto divertente. Fai un'espressione molto divertente. Beh, allora. No, non ho registrato. No, ma è. No, dai, vai, vai. Vai, vai, che la Giorgia adesso. Signori, com'è che ti chiami te? Io? Sì. Vittoria. Sì, giusto, brava, me lo devo ricordare. Ok, Vittoria, solo per noi stasera in anteprima, vero Giorgia? Come regalo per la Carlotta, cioè una cosa proprio richiestissima, vero Carlotta che lo desideri tantissimo? Tantissimo. Se no si arrabbia, Carlotta mi fa la mucca e quindi non facciamo arrabbiare. Non facciamo arrabbiare Carlotta. Allora, sei pronta? Attento surfista, non ti impressionare. Che fai, togli l'anello anche? Perché addirittura? No, sì, perché sono. Ah, pericolosissimo. Ok, grande grande show della nostra Vittoria. Che fai? Pronti? Pronti, ci siete, signori? Oh! Sei stata velocissima però. No, faccio un'espressione bruttissima. Ah, fai un'espressione bruttissima. Perfetto. Intanto nel frattempo si è svegliata la nostra amica che era appannata. Dopo questa. Che fai? È andata via? Stai andando? Cosa? Dove sei andata? Nell'angolino. Nell'angolino. Da sola si è autopunita nell'angolino, ecco. Così si autopunisce questa ragazza. Ma non vi sembra di essere nel confessionale del Grande Fratello? Sì. Pochino. Volete confessare qualcosa inconfessabile? Francesco, ti amo. Ulla! No, vi racconto la storia. Raccontaci allora, la storia. Allora, questo che si sentiva con una mezza influencer, tipo molto bella. Ah, ok. Il mio amico mi ha riferito ieri sera che ha smesso. Ha smesso? Perché gli è venuto anche lui l'influencer? E quindi mi si sono illuminati gli occhi. Ulla! Ragazzi, si sono illuminati gli occhi alla Vittoria. C'era di Vittoria allora. Questi sono già i vostri fan? Sì, questi sono i nostri amici. Volete salutarli? Ciao! Eh sì, ma fate i nomi che. Ciao Christian, ciao Luca, anzi Cristina. Poi ciao Mattia, chiamato Matthew. Sì. Che è il moroso della Carlotta. Esatto. E poi ciao Lorenzo e la Lia che sta dormendo nel tavolo. Ah, la Lia sta dormendo nel tavolo, sì. Nuovo modo di dormire, cioè, soprattutto nei locali, è bello dormire nel tavolo, non sopra, non sotto, ma nel tavolo, è fantastico, eh. Intanto la Vittoria sta pensando a Francesco. No, stavo pensando alla figuraccia che ho fatto mettere. Ah, la figuraccia del pugno in bocca, vediamo. Secondo me se Francesco invece, cioè, dice, cavoli, ma questa. Ha delle doti nascoste. No, l'hai detto tu, no, io. Le abbiamo rese pubbliche queste doti. Giorgia? Sei rimasta contenta di questa cosa? Sì. Tu non ce l'hai una specialità, Giorgia? Tu. Io trasmetto la felicità. Attenzione, colpo di scena, trasmette la felicità. Visto che siamo in radio, trasmetti la felicità a tutti. Come. Ciao a tutti e buona serata! Così me li hai assordati. Sono felice di non sentirti più oggi così. Hai capito? Carlotta, dai, mi fai un rumore della mucca? No. Dai, vai, guarda, pugno in bocca. La facciamo tutti insieme la mucca in onore di Carlotta? Sì, sì, vai. 3, 2, 1. sono momenti fantastici qua al convento di Lonato, in compagnia di, ricordiamo i nomi? Martina, Vittoria, Sasha, Carlotta, Giorgia. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Che figura di merda.